Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Allora, se l'ottimismo si misura dalla borsa, il fatto che Atene stia segnando in questo momento un più 7% in una giornata altrimenti piatta sul fronte delle borse europee potrebbe davvero dire qualcosa. Come avete sentito dunque un momento fa, il primo commento ufficiale sull'arrivo del piano, la lista, ieri l'abbiamo chiamata, oggi è già cresciuta a livello di piano, ma insomma è una risposta positiva, definita un buon punto di partenza. Intanto Dijsselbloem ha insistito, il presidente dell'Eurogruppo dunque ha annotato il fatto che la lista è arrivata molto tardi ieri sera, ma è nei tempi richiesti, e che si tratta senz'altro di una buona base di lavoro per dei lavori che sono in corso, perché lo stesso Dijsselbloem dunque presiede proprio da circa due minuti una riunione, un collegamento generale degli esponenti dell'Eurogruppo per portare avanti questo dossier. Tra l'altro, borse che attendono anche quanto dirà invece Mario Draghi, quindi dall'Euro Tower da Francoforte. Insomma, un pomeriggio con parecchie notizie sull'Europa, dell'Europa, che andranno a maturare nel corso appunto del nostro pomeriggio, che vi racconteremo. Adesso cominciamo da un punto che riguarda proprio l'intervento di Dijsselbloem, la prima parte di una lunga giornata per lui che ha compiuto questa mattina nella grande plenaria del Parlamento europeo. Alla fine è arrivato. Il piano della Grecia per ottenere il prolungamento dei prestiti di altri 4 mesi è all'esame di Bruxelles da pochi minuti prima della scorsa mezzanotte. Fonti della Commissione l'hanno definito un buon punto di partenza, anche se la chiave positiva, hanno detto, sarà la pronta applicazione degli impegni. Sono d'accordo con Draghi e Juncker, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem oggi al Parlamento europeo. La Grexit, l'uscita della Grecia dall'area euro, non è in discussione. Penso che i greci siano molto seri nei loro impegni, anche se la strada non sarà facile. Tra le misure previste da Atene nel piano di riforma ci sono solo due misure sociali: la possibile estensione del salario minimo, ma dopo una consultazione con l'Unione Europea, e i buoni pasto, energia e sanità per i poveri. Atene si impegna ad andare avanti con le privatizzazioni già avviate, la revisione dell'IVA, la lotta all'evasione fiscale. Parte poi la spending review, con meno ministri, consulenti e benefit politici, ma la sanità sarà garantita per tutti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E il governo greco su questo punto specifica anche che la lotta alla crisi umanitaria che la Grecia vive non avrà effetti negativi sul bilancio. La Grecia si impegna dunque a non ritirare, tra l'altro, le privatizzazioni già completate, a rispettare in base alla legge quelle per cui è stato lanciato il bando, ma rivedrà, dice il governo di Atene, quelle non ancora lanciate, puntando a migliorare i benefici a lungo termine per il governo e dunque per le casse dello Stato. E ora cambiamo invece completamente tema, rimandandovi poi al pomeriggio per le notizie sul dossier greco. Parliamo ancora un momento di cinema. Dunque, gli Academy a Los Angeles portano alla vittoria come miglior film straniero la storia di Ida, una storia polacca realizzata in Polonia di una giovane orientata verso la carriera ecclesiastica, che scopre in realtà nel suo passaggio un drammatico storia appunto legata alla confessione ebraica della propria famiglia. Ne abbiamo parlato con Silvia Costa, eurodeputata PD e presidente della Commissione Cultura, che ha commentato proprio come questo premio in realtà venga da lontano e sia molto legata ai premi europei Lux. Sentiamola. Credo che sia una grande soddisfazione anche per noi parlamentari europei, che siamo stati quelli che poi siamo stati la giuria finale del premio Lux, che da 7 anni riconosce, diciamo, il merito della cinematografia europea, in genere di giovani registi europei. E Ida, questo bellissimo film polacco che è stato premiato dal Parlamento europeo, è quello che effettivamente abbiamo visto uscire vincitore come miglior film straniero dagli Oscar. Questo è un film di grandissima importanza anche simbolica, la sua storia anche simbolica dell'Europa, e soprattutto in questo momento sta girando grazie al premio Lux con sottotitolazioni in 24 lingue europee in tutta Italia e potremmo dire ormai anche al di là dell'oceano. Bene, quando sono le 14:06 minuti e 30 secondi è tutto per Europa 24. Naturalmente vi rimando agli appuntamenti della sera e a tutti gli aggiornamenti nel corso di GR24. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.